Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Absolute, l'eleganza sale a bordo, di Andrea Ferro. Già il nome indica il senso di un'eccellenza da ricercare, sempre e comunque. Absolute, un cantiere, una sfida, un'attività che hanno preso il largo sulla scia di una tradizione, diventando in fretta la testimonianza di una delle massime espressioni del Made in Italy. Costruire yacht, ovvero barche di qualità sulle quali far galleggiare i sogni e la passione per il mare. Cesare Mastroianni, vicepresidente e direttore commerciale di Absolute, ci introduce nel racconto di questa avventura. Absolute nasce dalla volontà e dall'immaginazione di due giovani tecnici della nautica, Sergio Maggi e Marcello Bè, che nel 2002 fondano le loro energie, da un lato quella creativa, progettuale, dall'altro quella costruttiva e tecnica, per fare delle barche che fossero Absolute, cioè assolutamente diverse, nuove, innovative, assolutamente libere, indipendenti da capitali o controlli di terzi, quindi si mettono insieme e pedalano in salita. Poi vedono di avere successo, capiscono che funziona il prodotto anche all'estero, allora allargano la compagine includendo altri collaboratori orientati al marketing, alla promozione, eccetera. Questi, appunto, giovani però avevano un background forte perché arrivavano da un'esperienza pluridecennale all'interno della famiglia del gruppo Gobbi. Questa, insomma, è la storia di un'idea inseguita e poi realizzata grazie alla determinazione di un gruppo di lavoro capace di azzardare sul talento, di mettersi costantemente alla prova, seguendo l'originalità di una scelta. È una scommessa vincente di linee e di profili. L'idea è quella di proporre un prodotto che sia innovativo, quindi che implementi tecnologie all'avanguardia, che sia radicato nella tradizione del design italiano, ma che non disdegni di guardare a stilemi e a un approccio stilistico diverso. Insomma, recentemente, ad esempio, abbiamo introdotto la linea navetta, che è esattamente il connubio di un concetto classico, la barca dislocante, e di stile in qualche modo tradizionale, ma in pancia a tutte quelle novità di tipo tecnologico e tecnico che la rendono assolutamente all'avanguardia. Nei cantieri di Absolute, ai casoni di Podenzano in provincia di Piacenza, terra di pianura, di pomodori e di idee da far germogliare, la ricerca e lo sviluppo trovano un punto di equilibrio con la tradizione. È un artigianato di testa e di gesti, un sapere antico praticato attraverso l'esperienza che si sublima nell'innovazione. Tecniche, materiali, tecnologia sono plasmati nella continuità di regole, linee e gusti. È un concetto di eleganza che valica ogni epoca, perché soprattutto per una barca, eleganza significa leggerezza e semplicità, e vuole dire anche rispetto del mare e della natura da preservare. La sostenibilità, infatti, è diventata un valore imprescindibile. Quindi, per chi costruisce barche di eccellenza, una formula del genere non può contemplare strappi o divagazioni oltre questi punti cardinali. Un'idea, qui è il caso di dire, assoluta. Questo è proprio nelle nostre corde. Non è un caso che la presidenza della nostra società è di una persona che ha i capelli bianchi e ha una lunghissima tradizione alle spalle, Angelo Gobbi, ma nell'ufficio tecnico che in qualche modo lui contribuisce a dirigere insieme a Sergio Maggi ci sono ragazzi che si sono laureati avendo sulle punte delle dita le ultime tecnologie di progettazione e di costruzione. Dai cantieri Absolute ogni anno prendono forma, e poi il mare, un'ottantina di yacht di varie dimensioni, una gamma studiata per saper navigare in ogni angolo del pianeta. Il fatturato è in costante crescita, con le proiezioni che confermano questa tendenza. Nei cantieri di Podenzano lavorano tecnici, operai, ingegneri e architetti. Ognuno è espressione di mestieri e professionalità, di capacità e di fantasia. Sperimentando e creando su un elemento in perenne movimento, il mare, immaginare e realizzare barche significa traguardare un futuro che è una sfida continua, un'emozione imprenditorialmente vivace e inquieta, come ci conferma il vicepresidente di Absolute, Cesare Mastroianni. Noi abbiamo voluto coniare una specie di slogan che abbiamo chiamato More Value for Money, cioè dare all'armatore del valore aggiunto tangibile, tempo, spazio, funzionalità, indipendenza e autonomia, non solo in termini di navigazione ma anche di indipendenza dal clima, dalle condizioni ambientali, e quindi a parità di budget, tra virgolette, dare una barca che sia più fruibile. Ecco che gli armatori che noi incontriamo oggi un po' in tutti i continenti apprezzano questo approccio perché gli permette di avere più ospiti a bordo, passare più tempo a bordo, avere più facilities a bordo, quindi maggiori comfort e comodità. Il concetto di barca come status simbolo, come prestazione, tra virgolette, è passato in secondo piano. Oggi conta molto di più la consistenza dell'utilizzo. More value for money. La voglia di mare alita passione, interesse, tendenze, conoscenze, voglia di scoprire e sperimentare. Si affina sull'onda lunga delle esigenze, dell'idea stessa di barca e di yacht, un'idea che incrocia le mode e la socialità e incontra culture, abitudini, usi. Noi abbiamo colto una maggiore sensibilità al mare e meno interesse all'apparire. Quindi le persone ci chiedono non tanto quanti nodi fa la barca, o banalmente quanti cavalli hanno i motori, ma piuttosto posso fare la festa a bordo, posso cucinare, ho la dispensa, come mi comporto con gli indumenti, ho la lavatrice, l'asciugatrice. E quindi le persone pianificano delle vacanze più lunghe, più stabili a bordo, invitando anche persone magari un po' meno nautiche rispetto al passato, e quindi c'è la ricerca di comodità. Trascinata dall'idea che diventa uno scafo impostato, una barca deve essere sempre nuova e sempre diversa. Per questo anche le esigenze produttive cambiano e si rinnovano. Così Absolut ha allargato i suoi spazi e i suoi orizzonti. Sì, stiamo costruendo una nuova unità produttiva, sempre nella nostra sede storica di Podenzano in provincia di Piacenza, perché il mondo ce lo chiede, perché fortunatamente abbiamo azzeccato una serie di modelli che incontrano il plauso del pubblico, stiamo ampliando anche la rete dei concessionari, stiamo ampliando il numero di eventi e saloni nautici a cui partecipiamo, pedalando sempre in salita perché non siamo mai contenti, però diciamo che qualche soddisfazione ce l'abbiamo anche noi. Dopo gli anni tempestosi della crisi, segnati anche da provvedimenti legislativi che hanno ulteriormente penalizzato il settore, ampi squarci di sereno si stanno aprendo sulla nautica e le previsioni paiono incoraggianti. Gli ultimi dati diffusi da Ucina, la Confindustria Nautica, rintoccano il ritmo di una ripresa che marcia spedita, tocca velocità che neppure i più ottimisti potevano prevedere. Crescono i fatturati delle aziende, sostenuti dalla forza di un marchio, il Made in Italy, che spinge l'export come una molla. Vale per chi costruisce grandi yacht come per chi produce piccole unità. È un buon vento che soffia trasversale e allontana le nubi. Il segnale più incoraggiante arriva dalla domanda interna. Tutti gli indicatori attestano che la tendenza è stata chiaramente invertita e ora si veleggia per recuperare le posizioni perdute. La crociera di porto al largo delle nostre coste però è ancora lunga, anche perché, nonostante l'atmosfera stia cambiando, sullo sfondo in parte resiste un'immagine distorta della nautica da riporto e di chi la pratica. In Italia io vedo ancora un po' di debolezza da questo punto di vista. Bisogna ricordare che la nautica è un mestiere nobile di artigianato, di ingegneria, di architettura, di stile. Vi è coinvolta la migliore maestranza dell'artigianato manufatturiero italiano e l'Italia eccelle nel mondo per questi primati. Ahimè, in Italia questi aspetti un po' vengono dimenticati e si pensa che l'utente della barca sia qualcuno che in qualche modo si approfitta di qualcosa. Beh, io personalmente sarò, diciamo, parte in causa, ma ritengo che vada maggiormente valorizzato il valore aggiunto che il know-how e l'esperienza e la cultura italiana possono dare a questo mondo, e valorizzando questo capire quale tipo di patrimonio, non solo economico, noi portiamo a beneficio del paese andando a esportare i nostri prodotti in tutto il mondo. È facile vedere nella comunicazione pubblica veicolati facilmente dei grandi valori italiani nel mondo delle auto, della gioielleria e della moda, perché è giusto fare così, perché quella manifattura è un nostro orgoglio. Beh, alle volte delle barche non se ne parla con lo stesso spirito, spesso le immagini di barche sono abbinate alle ispezioni fiscali o alle multe. ed è un po' limitativo. Bisognerebbe ricordarsi anche di quale sacrificio, di quale genialità è impressa in quelle stesse barche che poi, appunto, ripeto, noi esportiamo in tutto il mondo. Io poi non sono esperto del settore, ma vedo che nello sviluppo portuale forse stiamo un po' indietro rispetto ad altri paesi mediterranei, quando in realtà potremmo offrire un sistema combinato di turismo, di cultura nautica e anche di cultura enogastronomica tutti insieme, che penso ci invidino un po' tutti gli altri, insomma. Ma sull'onda di dati economici incoraggianti per la nautica, in quale direzione occorre muoversi per consolidare la ripresa? Diciamo che nel mio piccolo ritengo che sarebbe già opportuno considerare la nautica alla stessa stregua di altri comparti manifatturieri italiani, fare più sistema. Questo però è una nota critica interna al nostro mondo, dove c'è stata un po' di diaspora, di contestazioni interne, io riterrei abbastanza inutili, e fare fronte comune, chi è al governo e chi è nella produzione, per portare un vessillo che fino a 10-15 anni fa era incontrastato e riconosciuto in tutto il mondo come prioritario e primario. Per chi la concepisce e la costruisce, ogni barca è un sogno che si realizza e un sentimento unico. Ogni barca, cioè, ha una forma e un'anima. Ma ce n'è una che resta più nel cuore delle altre? Che lascia un segno più marcato? Cesare Mastroianni di Absolut, a suo modo, non ha dubbi. L'ultima nata è sempre quella che si ricorda più facilmente e più felicemente, la 50 Fly, appena arrivata, è stata presentata a Sydney, ripresentata a Cannes, sarà ad Amburgo, a Düsseldorf tra poco, a Istanbul, a Fort Lauderdale negli Stati Uniti e a Hong Kong a maggio. Quindi 7 esemplari verranno presentati ai 7 più importanti saloni del mondo e sono state tutte prenotate e vendute. Questa è una barca per la famiglia, è una barca pensata per avere a bordo il papà, la mamma con i suoi bambini, magari anche qualche amico, perché ha 3 cabine doppie con 3 bagni, più la cabina del marinaio per chi non ha esperienza di conduzione diretta. Ha un fly, quindi un ponte superiore che può essere usato per prendere il sole o fare la cena serale, e diciamo è autosufficiente per tutto: lavastoviglie, lavatrice, salone con TV, antenna satellitare e quant'altro. Una casa galleggiante per le vacanze itineranti nel mare. È una barca di circa 16 metri. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.